Oh, Vagliù! L'ama prista buttia! È arrivato l'UCD nuovo, no? Facciamo uno brindisi! Sappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Sappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Dall'Aspromonte fino a Roma capitale, questo beat mi piace. Fenomenale come Peterson Dunn con il tè in TV. Mando giù questo vino, sì, glu glu glu. Solo qualche minuto che possa entrare in circolo. Non paisa ma nelle vene fino al mignolo del piede destro, pronto a calciare. Un po' di musica sto cazzo di stivale. Stappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Stappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Uno solo sono dei fratelli Terroni, gli frati Fusco, Uber, Ribellino sono i nomi che per gioco talvolta anche seriamente scrivono parole con il cuore e con la mente. Anche io uno di loro nel mio piccolo, mi impegno a scrivere parole su sto singolo pezzo che ora sto cantando e dispiaciuto vi annuncio che la fine sta arrivando. Stappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Stappiamo lo spumante, no no no, soltanto vino primitivo negramaro però. Un brindisi terrone a questa famiglia, minchia questo vino come piglia. Stappiamo lo spumante, no no no, soltanto prima Dio, ogni ora amaro però. Un brindisi terrone a tutta sta famiglia, e minchia stumiero come piglia.